Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Ne avevamo parlato oltre un anno fa e promesso che vi avremmo dato notizia quando fosse stato messo in acqua il primo prototipo su scala 1 a 1. Ebbene, ci siamo. Stasera allora andiamo a Pantelleria, dove sta per essere messo alla prova ISWEC, un sistema altamente innovativo per la produzione di energia dalle onde del mare, concepito al Politecnico di Torino. Ne parliamo con Paolo Guerra, che è project manager del progetto ISWEC e socio di Wave4Energy, che è lo spin-off del Politecnico di Torino che sta sviluppando questa tecnologia. Benvenuto Guerra. Buonasera, buonasera Maurizio, buonasera a tutti. Allora, ricordaci intanto in breve che cos'è questo ISWEC, come funziona, qual è il vantaggio di questa tecnologia? ISWEC è un sistema che per la produzione di energia elettrica dalle onde del mare. La conversione del moto ondoso a moto a energia elettrica è dovuta a un giroscopio, è situato al suo interno. Quindi intanto diciamo che c'è una specie di zatterone a tenuta stagna, no? Di 15 metri per 8, ricordo bene? No, giustissimo. Ok. E lì dentro c'è tutto quello che serve per fare questa conversione. Esatto. E il cuore, dicevi, del meccanismo di conversione è un giroscopio. Che cos'è un giroscopio? Un giroscopio non è nient'altro che una trottola, la cui proprietà si è imparata da bambini, è quella che quando inizia a girare, e più che altro più velocemente gira, più cerca di mantenere il suo asse verticale di rotazione, e quindi ogni volta che si cerca di toccarla lei ritorna in asse. Noi, usando questo principio banale perché ci giocavamo, usiamo il moto delle onde per far sì che questo giroscopio, ovvero trottola, venga portato fuori asse, quindi venga sbilanciato, e lei cerca di ritornare in asse. Questo moto oscillatorio del giroscopio, sì, che cerca di ritornare in asse, noi lo preleviamo, lo portiamo dentro un generatore elettrico che funziona come fosse una dinamo della bicicletta, e quindi di lì riusciamo a produrre energia elettrica. Ecco, questa cosa del giroscopio, tra l'altro questa che è una specie di grande volano, quanto è largo? 1 metro, 2 di diametro, un oggetto bello grosso, no? Sono 2 metri di diametro, ecco. Sì, e 7 tonnellate di peso, ecco. Quindi è un oggetto decisamente grosso. Per di più lo dovete tenere sotto vuoto. Qual è il vantaggio di avere questo sistema rispetto magari a qualche alternativa più semplice, che peraltro si è vista in giro? Allora, diciamo le due principali, una rispetto alle alternative che ci sono in giro, che noi riusciamo a avere tutto il gruppo di conversione, quindi tutte le parti in movimento e meccaniche all'interno dello scafo di cui parlavi prima, quindi non a contatto con l'acqua, la salmastra che è distruttiva, no? Esatto. L'altro grosso vantaggio è un po' più tecnico, però cambiando la velocità di rotazione del giroscopio, come quando si girava più velocemente la trottola, il giroscopio diventa più rigido. Questa rigidezza viene data a tutto lo scafo, a tutto l'assieme, e quindi riesce ad adattarsi, secondo la propria velocità, meglio alle frequenze delle onde che cambiano ovviamente durante il giorno e durante l'anno, riuscendo in questo modo sempre a mettersi nel punto di massima produttività per il sistema. Voi sostanzialmente vi sintonizzate sulla lunghezza delle onde del mare in quel momento, in modo da riuscire a tirare fuori il massimo dell'energia possibile. Esatto. Obiettivi di questa sperimentazione? Gli obiettivi di questa sperimentazione prima di tutto sono testare in scala 1 a 1, che segue altri due prototipi in scala 1 a 46 e in scala 1 a 8, che hanno avuto risultati eccellenti, che tutto quello che è stato studiato, fatto, realizzato abbia una veridicità e quindi produca quanto vi aspettate, insomma. Esatto, sulla carta e attraverso gli algoritmi. Il secondo obiettivo è ovviamente che questo sistema abbia tutte le caratteristiche funzionali e di resistenza al mare, perché il giroscopio va bene, funziona, magari produce, però messo in un ambiente marino che peraltro può essere molto distruttivo, bisogna verificare che a tutte le condizioni questo sistema rimanga stabile e continui a mantenere l'efficienza per la quale è stato realizzato. Per anni tra l'altro, perché questi sistemi o sono capaci di funzionare per qualche anno senza manutenzione, oppure diventa antieconomico intervenire. Certo. Costi di questa produzione elettrica, oggi siete in grado di dire quanto costerà un kilowattora prodotto con la vostra macchina? Allora, ad oggi ovviamente sul prototipo è difficile stimare un prezzo perché sarebbe ovviamente molto alto. Diciamo che noi a tendere nei prossimi 5 anni cerchiamo di portare il costo dell'energia elettrica a 10 centesimi a kilowattora. Contro quelli che sono i 6 o 7 centesimi dell'energia prodotta, per capirsi, col gas o col petrolio. Quindi insomma abbastanza vicini alla grid parity. Grazie Paolo Guerra e in bocca al lupo. Grazie a voi. Va bene, ci fermiamo qui. Smart City va veramente in vacanza questa volta. Ci risentiamo a settembre. Non perdetevi Canale 24 la domenica se volete rimanere in contatto con noi. Buona serata.